تنسى في الوطن من عجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي صاحب العرض وغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارض تناديكم خدر المعادي بشد على الايادي بالايادي بساعد مع هم الموت قلبه طابق بالصوت ورافض السكوت وصاحب عند الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتغطى الوداع هو الابقى احكي في فيتوريو رمز السلام والحب رمز ايماني بالحق رمز ارادة الشعب احكي في فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف فيتوريو اخي سلام عليك من كل اخ لديك اكتسبته بغزة احكي في فيتوريو احنا إلنا اخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للابد انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وانا اناديكم اشد على e 19:33 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default andiamo in onda con l'ultima puntata di Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi sulla Palestina occupata. Ricordiamo velocemente i contatti della radio www.radiodefault.it per essere aggiornati sul nostro credo ormai quasi ex palinsesto, le nostre iniziative e per trovare i podcast delle nostre trasmissioni. Avete sempre la nostra pagina Facebook Radio Default in cui potete essere aggiornati in tempo reale su ciò che la radio trasmette su ciò che succede nel mondo. Ricordiamo che oggi abbiamo mandato la diretta di Radiolina su il corteo contro la BCE e contro l'austerity che si è tenuto a Napoli oppure potete seguirci sulla pagina Facebook Castelli per la Palestina che ricorda che è la pagina Facebook della chi gestisce questa trasmissione, cioè l'Assemblea di Resistenza di Solidarietà con la Resistenza Palestinese dei Castelli Romani. Se no potete sempre venirci a trovare in radio via Guidobaldi 56, avete quest'ultima occasione per interagire con la nostra trasmissione. E quindi un altro stacchetto musicale prima di cominciare la trasmissione vera e propria. Questi sono i tunisini dell'armata Biserta e questa è It's the Sound of the Police. www.tunisienrap.com كان حشيت نعيشكم بلا بيزا تلقوني مع الكلون ساوند اوف فريدم ارمغا انت حكومة كيما العادة تحقيقة باسم الشعب كيف باسم الناس الفادة المراكز ضخمة هذا جيب لقيت اش بتشعل مش حديث راهو بالفعل جيب هنا اللي كان يتجعل بكا نم بكا بو بكا صاحب بكا بو الشعب اليوم ماهوش باش يسكت حتى يجيبو يحاكو بوليس ولا رئيس دولة يتعداو على القانون اللي عنده طرف سلطة يولي يحكم كيف الاول طبق طبق القانون ما يهمكش في التعليمات خذ العبرة باللي تعدى خذ الحكمة باللي فات ايش عملت راسك لحلاش قضايا تهد جبل سؤال لك او فاش حاجة واحد ولا كتير خدمه بنية وضمير البقية غدر عشرة عفو تقود وين مصير اخي تقل بدل مشامية الحرب ولا تدامية ذكريات ما تتنساش دارما دا تحكيها وامية الشهود باقي موجودة لا واقفين كالسيودة كان باش حاول صفن بحكي دوزيات كن مجهودة البروف موجودة عنا الشعب يحب يتهنى كان تغلط خلص بالوقت ولد بلاد ما عاش يستنى كلمة الحق تتقال تونس بلاد الابطال الله يرحم الشهيد اللي خلانا سوا حرار خلي العبر قلبي معبي عنده سي صايب باش تتفجر فك السيستم فك البوليس اللي تجبر يسي ما تبرز راسي يسي من اللي تتحرر صلينا وقفتونا سكرنا ضربتونا سنينا فرحتونا الحق نفيدونا في السيستم يسي ما تربتونا تداو عشير سلاك اللكتونا تسلحتو بيا كلاب انا عندي قلبي صدري للكرتوش العرض وراني حربي ما يهمني نتصعصع كي نطلب حقي مقبول قداش من نفسك بشرط واحد انتبه ميرو يا شعب فيق فيق خلينا نصورو كارا من تمشات احرام نزلنا عليها نقورو وانسو وانسو لا تكلاب اخفو وي فور وي فور حكومة يزي من ديكار الشعب التونسي فاق ولا اعطار عديق العدو ثورة اخرى سيئ ولينا فور عدو امك اي منتصر اسمي وين ضربة دابل زلدة ساوند وفريدوم فاميلي يا كلب حوس افهم شامي تشدي حرب حرب بالزي ولا بلاش من جنت الماسة جد بلاسي بوليس مان لاش تنقل لو احفرني ارضي هي ارضي خدمة الوطن واش بيكون فرضي خبي فردك الشعب تقلب على ضربك صفي قلبك ما تخليهاش تتشربك فوق لابس كابوس يسوي شو لسنا فوق سوق لحكوم قبل السيد المسؤول هذا مش معقول زرعتوا الخوف في العقول روح ورقة 10,000 وانت مش مسطول وكل كود يستاهل المجهول بتعليتي هالسي ابي وما فماش حلول واريوس اربع ساعة على طول طب دو بوليس نزيد بقول نظام البوليس السياسي ناس موصول اللي يكون في الهدف المحمول خاطب المواطن بالسياسة والمعقول سيب الشعب يعيش بالاحية والقميص سيب اصحاب البيس عالبار نحيلهم بريس اصعدوا في البوليس ما عادش زمان تبخيس اليوم لازمك تقيس يزيدكم بالتقيس سينو يشعلوا فيس بالفرد احتفيس دمنا مش رخيص الطاولة ما هيش فيس باور تو ذا بيت كود لاجو سميت بليز على تشيلي بليز تك شد يمينك يزيك ما مشيت اقوش بخيتك فرت وخرجت من دينك حرقت الضو جريد تعديت فلان تخزين خرطو على الميكانيك وينك كيفك خاصين توسي حربي ثوري عربي سخون دمك همك همي عليك مش هم رغني فني عمرك ما تلجمني خاطر على الحرية حتى الموت عمري ما تسلم واحد من الناس ناقم هاول وقت الشاش تتسلم تسكت مخبر توش دين يا ما تسرقوا فينا يا ما قبلتو رجاوي يا ما حفظتو علينا يا ما تبعتونا في الشامع كل السلام يا ما قريب باطل على الهواء يا ما وقفتوها اخت ايدي على الحجاب قديش من مرتاحي تعدى على الاستجواب زيد احمر عملنا شيري خلي نزيد نفرحهم قديش عذبوا رجال وتعديدوا على حقهم قديش من نخب ومرأة تعدى على عرضها حاكم جيت عدي قفة للمربوط تبيع شرفها باطل ما عادش خايف منكم عاد اظن سريات عدى الشعب فيك منطق يا حاكم دول سكة عصير البلاد ديني دينا اخدم هبط راسك كل واحد مسؤول على حقه باش يطالب ارمدا اونلا خيط وجوه وهلكم بقى خدينا الريس على الحرية رافعين الفوق خلايا نحن كسل كمن فهمت كان حتى اخت العون مش القصول وراسه واولا واخيرا العون هو فهمتي عبد مامور ينفذ التعليمات مش من راسه ما نحسبوش العون ما نحسبوش الضابط ما نحسبوش العون ما نحسبوش الضابط E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi sulla Palestina occupata. Ci siamo lasciati ormai un mesetto fa con la fine della guerra, dell'aggressione contro la striscia di Gaza, che annuncio che c'è stato il fuoco che praticamente siamo riusciti a dare in diretta da a questi microfoni e da quello che è successo in un mese a questa parte non fa ben sperare in una risoluzione dei problemi della striscia. Di fatto sembra quasi che tutto ciò che sia che la situazione attuale della striscia sia quella pre-aggressione, solo con qualche problema umanitario in più. Di fatto l'apertura dei valichi di frontiera c'è stata, ma relativamente poca. Va bene che sono riusciti a entrare per la prima volta dal 2006 gli aiuti alimentari del World Food Program, ma poco altro, come poco materiale per la ricostruzione. Comunque l'embargo di terra non è finito il blocco navale, visto è stato permesso ai pescatori di pescare nelle 6 miglia nautiche invece che le solite 3, però diciamo che nel frattempo sono avvenute nuove aggressioni contro i pescatori da parte della Marina sionista, mentre l'ampliamento a 12 miglia nautiche dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, ma appunto è stato demandato a successivi colloqui che dovevano essere la settimana scorsa e che sono stati rinviati per il Capodanno ebraico e sono stati rinviati alla fine di questo mese, quindi non si presagisce nulla di buono. Nel frattempo appunto la discussione sul porto o la costruzione del porto e dell'aeroporto è ancora in fase di stallo, anche se in un'intervista rilasciata al quotidiano libanese Al-Akhbar, Mahmoud Zahar, uno degli esponenti di maggiori esponenti del movimento di resistenza islamico, ha dichiarato che il popolo palestinese deve costruire il suo porto e l'aeroporto in maniera unilaterale senza l'approvazione preventiva delle forze di occupazione sioniste, e appunto queste trattative al Cairo tra la resistenza palestinese e gli israeliani, mediate dall'intelligence cairota, appare che non stanno portando a nulla, anzi appunto sono state ampiamente rimandate di un mese. In tutto questo la situazione politica palestinese pare essere ritornata a quella di prima, se non peggio, con la grande unità che si è trovata, che il popolo palestinese ha dimostrato intorno alla sua resistenza, unità che ha costretto praticamente al silenzio il pupazzo di Ramallah Abu Mazen durante il mese di aggressione. Ora ritornano le le guerre tra le due principali fazioni, Hamas e Fatah, anzi soprattutto da parte di Fatah, che si è lanciata in grandi accuse contro Hamas, accusata di star portando avanti un governo ombra nella striscia e evitando di pagare i dipendenti pubblici che per 6 anni hanno servito l'amministrazione palestinese nella striscia. Su tutto questo Abu Mazen e Al-Fatah stanno cercando di tenere testa alle avversità, alle loro avversità date dalla loro inettitudine politica. Sono state rinviate, perlomeno non si parla ancora delle elezioni che si dovevano tenere a sei mesi dall'accordo di unità nazionale che era stato raggiunto nel maggio scorso, anche perché probabilmente queste elezioni le andrebbero a perdere. Non si parla né di elezioni presidenziali né di elezioni legislative, se ha ancora senso parlare di un parlamento palestinese sotto l'occupazione, e dall'altra Abu Mazen ha portato avanti la sua personale proposta di pace all'ONU proprio venerdì scorso, il giorno prima della manifestazione nazionale che si è tenuta a Roma, in sostanza un discorso che lascia da una parte abbastanza basiti, perché non si è mai Abu Mazen non si è mai espresso così nettamente contro Israele, ma di fatto la sua presa di posizione contro Israele è risultata essere soltanto un'ammissione del fatto che le forze di occupazione hanno commesso dei crimini di guerra in questa ultima estate a Gaza, che insomma non ci voleva Abu Mazen che lo dicesse all'ONU, era abbastanza sotto gli occhi di tutte e tutti, ha riportato avanti la solita proposta ritrita di proposta di riconoscimento come Stato membro delle Nazioni Unite proposta appunto che dovrebbe portare a uno Stato di Palestina all'interno dei confini del 1967 però non si spiega come riconoscere uno Stato porterebbe alla liberazione dei confini fino ai confini della guerra del 67 e soprattutto Abu Mazen ha minacciato di dover che se gli Stati Uniti porranno il loro diritto di veto al Consiglio di Sicurezza la ANP ricorrerà alla Corte Penale Internazionale. Tocca vedere con quali soldi ricorrerà la Corte Penale Internazionale, visto che qualche mese fa il ministro delle finanze palestinesi, dopo aver appunto ha ammonito che non c'erano soldi per entrare negli organismi internazionali. D'altronde sappiamo tutti che il bilancio della ANP è alimentato dalle tasse che vengono raccolte dagli israeliani e che vengono versate nelle casse della ANP come e quando la ANP fa ciò che piace alle forze di occupazione. Quando si pone anche pallidamente contro le forze di occupazione, è giusto pallidamente perché non risultano grandi prese di posizione contro l'occupazione negli ultimi anni, le forze di occupazione si sono hanno evitato di appunto versare i soldi nelle casse della ANP e quindi la ANP si trovava in crisi finanziaria, non riusciva a pagare gli stipendi, non riusciva a pagare gli ospedali, le proprie guardie, la propria guardia presidenziale forte di 6.000 soldati addestrati in Giordania anche dagli israeliani e dagli statunitensi, invece quelle sono sempre state pagate, sono state viste come appunto come vengono utilizzate per reprimere chi resiste nella West Bank, e quindi appunto un tentativo da parte della ANP di uscire dalla propria impasse politica e diplomatica, ma vedremo come andrà, ma non credo che si porterà a nulla di buono, anche perché anche se venisse riconosciuto questo Stato membro, resta il fatto che nella West Bank, la West Bank occupata è ancora di fatto un Bantustan, una serie di Bantustan intramezzati da insediamenti dove vivono quotidianamente oltre mezzo milione di coloni sionisti. Come li manderà fuori questi coloni sionisti? Di certo non si vorranno far assimilare nello Stato palestinese. E di certo toccherebbe mandarli via manu militari, cosa che a quanto pare l'ANP non ha mai dato dimostrazione di voler fare. Dalla sua invece Hamas si ritrova a dover gestire questa vittoria della resistenza, che rischia di diventare nettamente una vittoria mutilata. Ricordiamo che la resistenza palestinese, non solo Hamas, negli oltre 50 giorni di offensiva è riuscita a rispondere quotidianamente alle bombe sioniste con lanci di razzi continui contro le città occupate nel 1948. Ricordiamoci che il primo giorno di bombardamenti ha visto i razzi della resistenza sulla città di Haifa, e l'ultimo giorno di bombardamenti ha visto i razzi della resistenza sulla città di Haifa, razzi della resistenza che hanno permesso che hanno fatto vivere letteralmente come dei sorci gli occupanti di quelli che vivono nella cosiddetta Israele, quotidianamente costretti a vivere sottoterra, come si addice ai sorci, nei loro bunker. Perlomeno loro avevano i bunker, a differenza della popolazione palestinese. È stato portato all'immobilità per 3 giorni l'aeroporto di Tel Aviv, con le maggiori compagnie internazionali che hanno interrotto i voli, e questa è stata una grande vittoria della resistenza. Tra l'altro un'agenzia dell'altro giorno notificava che diverse centinaia di milioni di dollari sono stati persi dal settore turistico sionista, e che il settore turistico rimarrà mutilato per ancora parecchi mesi, perché sono state numerose le cancellazioni anche per i prossimi mesi di chi voleva andare nella Palestina occupata nel 48 per turismo. E questa quindi è una grande vittoria, forse diciamo un'azione BDS, un'azione BDS che ci piace tanto. Però appunto abbiamo visto come questa grande vittoria ottenuta dalla resistenza, anche con operazioni sul terreno, grazie ai tunnel che hanno portato i combattenti, hanno portato lo scontro all'interno dei territori occupati nel 1948, costringendo all'esodo tutte le popolazioni di coloni che vivono al confine con la striscia di Gaza, però appunto rischia di essere una vittoria mutilata che non potrà, visto che famose richieste portate dalla resistenza per il cessate il fuoco pare che non si riescano ad ottenere. In tutto questo aumenta la repressione sionista, abbiamo visto nella striscia di Gaza continua con appunto gli attacchi ai pescatori, ma continua soprattutto nella West Bank, dove continuano gli arresti con gli omicidi. È stato ucciso ad Al-Khalil l'altra settimana, sono stati uccisi due dei sospettati due di coloro che erano stati accusati di aver sequestrato ed abbattuto i 3 giovani coloni sionisti rapiti vicino ad Hebron agli inizi di giugno. Nel frattempo appunto i responsabili di questa operazione di resistenza sono stati ammazzati, quando chi invece, i coloni di Gerusalemme che hanno torturato e bruciato vivo il giovane teenager Muhammad Abu Khodair sono stati rilasciati in attesa di giudizio, in attesa che ripiglino un aereo per la Polonia, per gli Stati Uniti o per l'Italia. E appunto si intensificano gli arresti, si intensificano le campagne di repressione, spesso anche con il sostegno della NP, delle forze di polizia della NP che l'altro ieri a Nablus hanno arrestato dei manifestanti che stavano facendo una contestazione davanti all'università. E in tutto questo ovviamente c'è anche si è vinta una piccola battaglia, quella della compagna Khalida Jarrar, un mese e mezzo fa gli era stato notificato un foglio di via dalla città di Ramallah, da dove risiede. Khalida Jarrar ha deciso di opporsi a questo foglio di via e per un mese ha vissuto, per il mese che durava il foglio di via, ha continuato a vivere nella propria casa, resistendo a questa forma di repressione dell'occupazione. Foglio di via che appunto è terminato il 17 settembre scorso e che non è stato riconfermato. Una piccolissima vittoria, ma che a noi ha fatto piacere, visto che abbiamo dato voce alla sua lotta anche da questi microfoni. E continua anche la repressione nelle carceri sioniste. Ricordiamoci che sono stati raggiunti dei record che non si vedevano dai tempi della seconda intifada. Siamo a 7.000 prigionieri nelle carceri sioniste, di cui un paio di migliaia arrestati negli ultimi 3-4 mesi. E continua la repressione, tant'è che l'altra settimana decine di prigionieri palestinesi hanno annunciato di voler lanciare prossimamente un nuovo sciopero della fame. In tutto questo oggi ci sono state delle campagne di perquisizioni e di aggressioni contro i prigionieri che sono stati perquisiti nelle loro celle, mentre al compagno Ahmad Sadat, segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione per la Palestina, in carcere per aver ordinato l'ultima grossa azione di resistenza che ha portato all'abbattimento di un alto ufficiale israeliano, il ministro Zevi, gli è stato notificato 3 mesi di divieto di colloqui familiari. Avviso che Sadat non ha siglato, in quanto si rifiuta di riconoscere le autorità carcerarie sioniste, e però appunto si prevede una nuova un'intensificazione della campagna di repressione dei prigionieri. In tutto questo passa quasi sotto silenzio la situazione dei palestinesi del territorio occupati nel 1948, cioè i cosiddetti arabi israeliani, i palestinesi che vivono forse sotto la peggiore delle occupazioni, che continuano a portare avanti le loro lotte di supporto con la popolazione palestinese martirizzata nella striscia di Gaza. Continuano a portare avanti le loro lotte contro la gentrificazione per quanto riguarda le città della costa, ad esempio di Haifa e di Acca, e che portano avanti discorsi culturali delle campagne di ritorno, di ricostruzione dei villaggi distrutti nel 1948, e anche loro ampiamente repressi, come è successo qualche mese fa, un mesetto e mezzo fa, con chi è stato arrestato perché colpevole unicamente di fare una diretta Skype con Leila Khaled ad Haifa. E quindi la situazione per la Palestina, della Palestina continua a essere bollente. È stata bollente in questi 2 anni e mezzo di trasmissione e continuerà ad esserlo, sapendo però che da questa guerra, questa ultima aggressione unilaterale, il popolo palestinese è uscito coeso non tanto intorno alle proprie partiti politici quanto alla uniti intorno alla propria resistenza, che è stata l'unica che è riuscita a tenere testa per più di 50 giorni all'occupante sionista. Noi facciamo un breve stacco musicale per poi passare alle iniziative. Questo è il rapper anglo-iracheno The Narcissist che canta con la rapper palestinese Shadia Mansour, Alhamdulillah.

audiovisiva e cinematografica palestinese. L'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico presenterà la versione restaurata di Tel al-Zatar, il recupero della memoria, film di Mustafa Abu Ali, Jean Chamoun e Pino Adriano, una coproduzione italo-palestinese del 76, film che chi è riuscito a vederlo sa essere bellissimo e restaurato sarà ancora meglio. Saranno presenti alla presentazione, oltre a i compagni dell'AMOD, ci sarà anche Emily Jassir, artista palestinese, Guido Albonetti, docente di restauro cinematografico, e Wasim Dahmash, docente universitario all'Università di Cagliari e scrittore. Oltre a questo si presenterà anche la terza edizione del Cineforum, appunto, Palestina. Quindi l'appuntamento sarà alle ore 18 alla Sala Zavattini della Fondazione AMOD, a via Ostiense 106, alla centrale Monte Martini. Mentre quasi in zona, il giorno dopo, il 10 di ottobre, venerdì, ci sarà la presentazione di due libri, Vivere con la spada di Livia Rorkach Il terrorismo impunito, perché i crimini di Israele minacciano la pace mondiale, di Diego Siragusa. Alla presentazione sarà presente l'autore stesso, che ha anche curato l'introduzione di Vivere con la spada, il cui sottotitolo è Il terrorismo sacro di Israele. Ci sarà appunto presentazione, più che altro dibattito tra le compagne e i compagni. La cosa si terrà alle ore 18, venerdì 10 ottobre, presso il Circolo Culturale Birreria Pub Brancaleone, a via Marconi 103 ad Aprilia. Ovviamente il tutto organizzato dall'associazione Libera Gaza in Libera Palestina, che è nata sull'onda della repressione sionista di quest'estate, che fortunatamente riprende le proprie attività. Queste sono le notizie, ci lasciamo a un ultimo stacchetto musicale prima dei corposi saluti. Questa sono i Dam con Shadia Mansour, che cantano Badi Salam. فن بمراسيم جنون ولجنون فنان يرسم على شعبي خدود مليان دموع يحصد الارواح ويروح من غير من وين رايح من وين جاي سحيت على جنون رسم له اسهم دخول تفضل معي البداية عالم انانا في دولة قالولنا في سلطة يلا جربونا بديمقراطية يلا فلسطين في انتخابات حرة استنى بعلي في علامة سؤال تجوي بقوة منذ متى الديمقراطية تجاب للحرية سألت الأمة بس سؤالي طفى بال ادواو الكاميرات عشان كانوا عقفة من يشيل الاحداث مسلطين عدسات الشعب ماسك ورا عشان اليوم يوم عطلة في انتخابات الكل مدندن تقول في دنيا سامع طرب بطريقه للبوكسي انا محضر تمثيلية مثلناها منيح فريق نزل فريق طلع طيب فريق لازم يزيح تمثيلية كان الهني هي مفاجئة العالم فكر ما تصير زعلوا منا صارت مقاطعة انا بناديها تهزيل هذا البداية اللي بدنا اياه واحنا ما فهمناش ايش بيصير هي ليش الجماعة زعلانين غريب عجيب فكرتهم كيفين على تقرير المصير هي الوجه المفروض لبس توب التكشير اقتراعنا مرفوض المقاطعة تحت التنفيذ تقول الاحتلال العقود ما كفى فنفود العالم يد وحدة التفى بفلسطين الجوع اتفشى واحنا جوعنا فتوحمنا الحم بعضنا طعجنا بوزن فرود عوجونا وعزنا ضغطنا عصرنا تل مصريين خلص تتعبيش احنا بنصفي حالنا بحالنا ولما تبكي عشان ابنها انقتل من اللي كانت تناديهم زلمنا البداية اللي بدنا يا عين الفرد من وشي عين الفرد يا للسخرية كنا بدنا سلام على العروف هلا بدنا سلام محل هلا العالم شافنا وبما انه موجهن بعلامات المفاجأة كان يتفنن لنا عنا انه هو بيتهلم مسكين

dell'informare e controinformazione. E un po' con questo spirito, ovviamente noi ci siamo presi tutti i complimenti che ci ha fatto il compagno Mamoun, ma magari fosse così, però diciamo, con questo spirito noi ormai nel febbraio del 2013 abbiamo iniziato questa trasmissione, una trasmissione che appunto non puntava all'informazione quotidiana su ciò che avveniva in Palestina, anche se poi abbiamo il GR, è stato un elemento molto apprezzato e ascoltato delle nostre trasmissioni, però appunto era proprio questo che ci siamo prefissi di fare all'inizio, appunto creare uno spazio di approfondimento e di analisi storica e politica e sociale su ciò che sta avvenendo nella Palestina occupata, che potesse essere uno strumento utile per tutti gli internazionalisti per comprendere appunto la storia della Palestina, dell'occupazione, quale sia in realtà la Palestina, che non è quella che ci propinano della West Bank e Gaza, ma è tutto quel terreno che va dal Mar Mediterraneo fino al fiume Giordano, di spiegare un po' cosa sia il colonialismo, il colonialismo sionista, il colonialismo europeo in generale. E in tutto questo abbiamo cercato anche e soprattutto di mettere da parte il nostro essere appunto dei bianchi europei, di cercare di deorientalizzare un po' le nostre menti e cercare appunto di dare voce diretta ai palestinesi e alle palestinesi. Ovviamente non siamo riusciti a farlo in toto perché pur sempre bianchi siamo e pur sempre europei siamo, e quindi non fateci passare qualcosa, però appunto il nostro obiettivo è stato questo. Purtroppo la redazione all'inizio era di tre compagni, poi si è ridotta soltanto a chi vi parla, però appunto abbiamo cercato in questo anno, quasi due anni, di creare appunto uno spazio di approfondimento e analisi, di riuscire a informare e a controinformare senza cercando di smontare le bugie dominanti sui nostri media e cercando appunto di sviscerare quegli argomenti fondamentali che sono la causa della base palestinese. Ovviamente non siamo riusciti a eviscerarli tutti, purtroppo le nostre linee guida non sono mai state di sostenere una fazione o un'altra, ma di tenere sempre bene a mente che i cardini di lotta, la lotta di liberazione palestinese, cioè il diritto all'autodeterminazione, alla libertà e soprattutto del ritorno di tutti i profughi nella terra di Palestina occupata nel 1948. Diamo qualche indicazione, qualche dato. Abbiamo fatto più di 37 puntate, di cui 10 sono state le puntate speciali che abbiamo fatto in questa ultima estate per aggiornarvi due volte alla settimana sull'aggressione sionista contro la striscia di Gaza. Abbiamo avuto ben 15 puntate di approfondimento, appunto, che andavano a eviscerare la storia della Palestina. Certo che Attilio è partito dalle piramidi e però si è fermato all'impero romano, quello vabbè, fatecelo passare, non siamo arrivati al 48, però grande Attilio che ci ha fatto con l'analisi storica finché ci è riuscito, e poi abbiamo appunto parlato di prigionieri, di profughi, abbiamo intervistato scrittori, attivisti in Italia e in Palestina, attivisti del BDS e via dicendo. E abbiamo fatto più di 500 ascoltatori soltanto in podcast, mentre qua in diretta ovviamente eravate decine e decine di migliaia, per questo spesso non riuscivate a sentirci. Non era questa voce che che vi ha che non era capace a usare i nostri strumenti tecnici era che eravate troppi e ci intasavate i server. In tutto questo, questa voce, oltre a dare informazioni e analisi sulla Palestina, ha cercato sempre da queste frequenze di cercare di informare sulla su ciò che avviene nel mondo, sulle rivolte e rivoluzioni che avvengono nel mondo, che si parli di Siria, di Tunisia, di Egitto, di Italia, di Ucraina, di Francia, di Filippine o via dicendo. Questo anche grazie a una grande anche e soprattutto di Grecia, questo grazie anche ai compagni della redazione internazionale della rete Comunia, che ci hanno permesso di conoscere tante e tanti attivisti di tutto il mondo che fanno le lotte in trincea come le facciamo noi quando spegniamo questi microfoni. Finisce Radio Cufia, ma non finisce la lotta ai castelli a sostegno della popolazione palestinese. Noi infatti l'assemblea di sostegno alla l'assemblea di sostegno alla resistenza palestinese dei Castelli Romani continua a lavorare. Seguite la nostra pagina Facebook Castelli per la Palestina. Già in questo durante l'aggressione siamo riusciti ad alzare più di 2.000 euro per la clinica Alauda di Gaza, nel campo profughi di Jabalia, nella striscia di Gaza, ma torneremo appunto con altre iniziative di boicottaggio, di disinvestimento e sanzioni. Quindi continuerete a trovarci, come ci avete sempre trovato a noi speaker di Radio Default, per le strade a lottare per la nostra terra e per la terra di tutti i popoli che lottano contro l'oppressione. Ovviamente tutte queste approfondimenti noi ribadiamo che abbiamo cercato di darli in un'ottica marxista non dogmatica, non campista, non cercando appunto di essere rivoluzionari e rivoluzionarie. Questo appunto è il nostro grande, credo che sia un altro grande punto a favore. Questa esperienza è stata anche un'esperienza umana per chi vi parla e per il calore che avete mostrato per questa trasmissione, e quindi vogliamo ringraziare chi è passato da questi microfoni a portare la propria voce di lotta. Pensiamo al compagno Khalil Shaheen, a Fatima, a Mamoun e Bulos, a Stefani o a Shad, o a tanti altri compagni e compagni, e soprattutto ringraziamo voi, ascoltatrici ed ascoltatori di questa trasmissione, che con i vostri suggerimenti, i vostri trillini, molto spesso anche con le vostre minacce ed imprecazioni, avete portato avanti questa trasmissione. Questa voce vi dà il saluto, vi dà l'addio, concludiamo con la nostra nuova sigla Udrub Udrub Tel Aviv, colpire colpire Tel Aviv. E ovviamente ribadiamo buona libertà a tutte e a tutti in Italia, nei Castelli Romani, in Palestina e in tutto il mondo. الخضرة وأسكالان إسرائيل كلها تحت الكسف شادي البوريني وقاسم النجار اضرب اضرب تل أبيب اضرب اضرب تل أبيب ضربناها أول مرة وهينا رجعنا وعدنا الكرة اقصفهم واطلعهم برا واضرب اضرب تل أبيب اضرب اضرب تل أبيب هاجمتونا من سنتين وردينا الصاعد صاعين لعيونك يا فلسطين بدنا نضرب تل أبيب أنا واضرب واضرب تل أبيب نتنياهو يا ابن ليش تكرر نفس اللعبة اسمع رد بلادي وشعبي واضرب اضرب تل أبيب ادعس ادعس تل أبيب يا نتنياهو خبرهم يا الحرق ومحمد بلغهم بكرة إن شاء الله رح نحرقهم احرق احرق تل أبيب وبدنا نحرق تل أبيب من شوفات الغضب أعلنا أتقدمنا وما استسلمنا وبالداخل رفرف علمنا واضرب اضرب تل أبيب اضرب اضرب تل أبيب من شعفات القدس الشعلة ومن عكا يافا والرملة ومن كل بلاد المحتلة بدنا نضرب بالأبيب. انا واضرب واضرب بالأبيب. المستوطن يلي اجرم غير القوه لا ما بيفهم يا شعب تحدى وتقدم واضرب اضرب بالأبيب. اسلخ اسلخ بالأبيب. مستوطن يا بطاقيه متخبه مثل السحليه بدي دوسك تحت جريه بدي ادعس بالأبيب. انا وادعس وادعس مدرسة الثورة داوم واضرب اضرب بالأبيب. انا واقصف اقصف بالأبيب. هذه ارضي يا مستعمر وان كانك فينا مستهتر صواريخ الدنيا راح تمطر واضرب اضرب بالأبيب. اضرب اضرب بالأبيب. ولع ولع دمر اقصف كل جنب اهبط شوف اخطف خلي الاسرائيلي يرجف اضرب اضرب بالأبيب. شرشع شرشع بالأبيب. سجل واكتب يا تاريخ شعب بيضرب صواريخ ومن الولد حتى الشيخ بدنا نقصف بالأبيب. بدنا نضرب اضربهم كثر ضربات اشتقنا لصوت الصفارات بالقدس وحيفا وايلات دمر دمر بالأبيب. فجر فجر بالأبيب. بدنا نزلزل بدنا نزلزل كل الضربات الجوية البرية والبحرية ما بتهز المعنوية بدنا نضرب بالأبيب. الله يهدك بالأبيب. رح تقضيها يا اسرائيلي بالملاجئ ليلي ليلي انتوا اللي اشعلتوا الفتيلي الله يهدك بالأبيب. الله يهدك هيا صاروخ الاحرار وانت بسما حيفا طيار سلم لي على الهدار ومي العلا ومي العلا الكوب الحديدي فشلت والجرف الصامد ما نفعت وهي حيفا المحتل انقصفت وهي ندعسنا لك هي نقصفنا ولع ولع القاصف ولع ولع ولع القاصف ولع وصلوا الفدعية شجعان عالسواحل عسقلان اشتبكوا مع جيش العدوان وذلوا جنودك بالأبيب. ذلوا جنودك بالأبيب. أفخايا درعي بطولك كوماندوز يلمع عجبولك بكفينهم وصلولك وهزوا كيانك بالأبيب. أو هزوا كيانك بالأبيب. يا حيف الأم العربية نامت نومي تاريخي بس احنا الفلسطيني بدنا نضرب بالأبيب. أنا واسلخ واسلخ بالأبيب. بدنا من الدول العربية سفارة صهيونية تطردها بنخوة وحامية واضرب اضرب بالأبيب. لك واجه واجه بالأبيب. يا شعبي بالداخل اغضب خلي صهيونية تركب لدنياه بدمه بلعب بدنا نضرب بالأبيب. بدنا نتحدى بالأبيب. يا فلسطيني بالشتات بالعواصم والساحات يلا اطلع مظاهرات وافضح افضح بالأبيب. افضح افضح يا حماس ويا الفتحة ويا جهاد ويا بن شعبية يا محلى الوحدة الوطنية بدنا نضرب بالأبيب. أنا شرشح شرشح بالأبيب. طيارات الاحتلال عم تستهدف الأطفال يا صحفي صور تعال افضح جرائم بالأبيب. افضح جرائم بالأبيب. يا الأمم المتحدة وينك عن غزة معمية عينك وين العدل بقوانينك يلا ديني بالأبيب. ويلا ديني بالأبيب. الفلسطيني مش إرهابي بس إسرائيل الكذابي بدها تمشي شرع الغابي الله يهدك بالأبيب. الله يذلك بالأبيب. يا أبو مازن احكي واشرح خلي كل مخفي يتوضح بدنا الصهيونية تفضح افضح افضح بالأبيب. اكشف اكشف بالأبيب. بالمحاكم الدولية تحداهم وارفع قضية ضد إجرام الصهيونية وافضح افضح بالأبيب. اكشف اكشف بالأبيب. احكي عن المستوطنين شو عملوا بطفل فلسطين حرقوا محمد بالبنزين افضح افضح بالأبيب. اكشف اكشف بالأبيب. www.kifak.net